In it for you. In it, your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Gentili ascoltatori di Music for you, rallegratevi perché c'è chi ha portato questa sigla nel nostro programma. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariole. Buonasera al nostro ospite della serata, ossia Simofonic. Una novità per gli ascoltatori di questo programma, non sono mai qua. Scattano i coltelli e si tagliano le vene per lungo. Tripudio intestinale in quel di Padova. A questo punto abbiamo Simofonic. Sì, però noi siamo fiduciosi. Tra l'altro Massimo Battistella per ora in svantaggio di una puntata, perché lui ha curato due puntate sulle etichette più Mr. Coma, per cui è in classifica è a 3. Il Simofonic da solo, senza contare gli interventi, andiamo a vincere gli interventi da Tergo, di Bogo e di Cassiano, mi arriva a 4 con stasera, sì. E la seconda in solitaria, grossa sfida. Pare che si dica anche il quinto viene da sé. Non si dice. Simofonic si avvicina agli ori dei fratelli Abbagnale e di Pepinello di Capua. Immagino ti renda felice una cosa del genere. Era un mio sogno d'infanzia. Allora, ci dovevano essere molti ospiti questa sera e come al solito è andato tutto a remengo, perché altrimenti non sarebbe la puntata di Music for You. La scusa di Cassiano di oggi è stata porca troia, mi sono dimenticato, scusate per il troia. Pensavo scusate per il porca, sì. Mi sono dimenticato, non ha detto altro. Proprio. No, e gli ho detto: Luca, è una settimana che lo sa che dovevi venire. Lui, no, in realtà erano 2 settimane. Forse per questo. Bene, salutiamo. Un saluto a Luca. Salutiamo Bogoni, accasciato su un divano ai bordi di quest'ultimo. Luca è a casa che gioca a Call of Duty. Guarda, ormai una vita da sposato. Veramente, noi siamo proprio dei nerd, studio e casa console. E Call of Duty, che è un signor gioco. L'unico che mi continua ad andare in giro sono io, non curante del fatto che fra 2 mesi compio 30 anni. E senza guinzaglio, tra l'altro. Esatto. Avvertiamo la protezione animali. Avvertiamola subito. Simofonic, c'è questa puntata priva di contenuto, per cui potremo spazzare tra i tuoi progetti molto autoreferenziali, che potrei farti pubblicità. Ovvio. E tu sei contento. Ne ho più di uno, adesso me ne è venuto in mente un altro. Ma in realtà il punto focale è che dobbiamo sponsorizzare una festa questa sera. Sì. Ora noi si parla della seconda Sby Night Rock. Sì. Lo vedo deciso. Dunque, in qualità di uno dei 3 organizzatori, posso dirvi che la Sby Night Rock è sabato questo. Sì. Ospite d'onore sarà il nostro amico From Tropical Pizza, Nicky, che si allieterà con i suoi cambi improbabili in console. Ci saranno i Pollen de Bonopolis, che stanno diventando sempre di più una realtà glam sexy rock del Sandone Atese. Noi stiamo aspettando che passino in studio e che gli state producendo il disco. Sì, li stiamo producendo. Cioè, in realtà loro hanno già fatto una registrazione di 4 brani che probabilmente adesso sono già stati passati, non so, a Sgarbi o qualcuno per qualche critica d'autore. E niente, ci sono loro che faranno un bel live, poi ci sarà Nicky, ci saremo noi in versione solita Glinon Rock per una mezz'oretta di fuoco. Solo mezz'ora? Sì, perché siamo in 700. Sì, ma dai. Questa scusa di portare 2000 persone per far arrivare la gente. Cominciate a tirarvela troppo. Sì, mezz'ora, ma forse anche 20 minuti. Adesso vediamo. Forse solo un'apparizione di Simofonic e Bogoni che si abbracciano e poi se ne vanno. Impongono le mani. Poi vorrei mettere un puntino sul ritorno di Manu Rock in console. Ah beh. L'ultima apparizione di Manu Rock è stata a un concerto di, penso, Peaches nel 94. Come mai è riemerso da queste terre di semplicemente nebbia? Perché lui è uno di quelli che è venuto alla prima Sby Night Rock. Ha detto: porca vacca, che figata, ci sono ancora feste veramente rock in giro. E noi abbiamo detto: sì, noi siamo gli unici che fanno queste feste bellissime. E lui ha detto: posso partecipare? Guarda caso, siete gli unici. E lui ha detto: posso partecipare? E noi abbiamo detto: ovvio, perché noi supportiamo il local come nessun altro. E infatti Simofonic si presta a venire qui, che è proprio, cioè, il local più profondo e che non dà soddisfazione alcuna a chi passa. Io vorrei fare una piccola puntualizzazione. Allora, tutto questo, tutta questa carovana ricca di ricchi premi e cotillon, succede dove? Al New Age Club di Roncade, via Tintoretto. È un locale arci, quindi fatevi la tessera. Esatto, arci, arci gay, insomma siete tutti benvenuti, gay friendly ovviamente. Molto gay friendly. Ovvio, niente, New Age, il tempio del rock italiano, sì, cosa volete sapere? Dove vuoi passare? A Nonantola, passi al New Age, passi... Nonantola, tra l'altro il Vox stanno anche malino, dunque... Passi a Milano, chiude. E tu? E Rolling Stone è chiuso, manca l'Agatha's del New Age, tu, star americana, dove vuoi passare? Questi tre postassi, New Age è il migliore tra una roba e l'altra. Ma esatto, poi è vicino a un locale che io ho scoperto di recente, dove... Non serve. Dove presto ci sono dei corsi di liscio, rumba e tango, secondo piano stesso edificio. Ma credo che non sia un locale, è una sala prove per chi... E qui apre un mondo. Una sottoscrizione mi fa volto. Vorrei dire che anche intorno a New Age ci sono dei campi che il nostro amico Terzaiolo sì, topografia per lui. Invece chi non conosce bene le produzioni è chi ha prodotto l'ultimo album, no, EP, perché è ancora un EP, ma uscirà l'album dei BDI. No, credo che sia quello che stai per mettere, è il primo singolo ufficiale dell'album. Di un album che è già realtà, perché un album che è realtà, penso di metà febbraio esca, fra una 20... 17 febbraio. Era anche già realtà di 25 anni fa, visto che ascolteremo Instant Karma di John Lennon. Questo con una voce diversa. Questo è un mashup tra Instant Karma e Nobody Told Me. Io è un mashup un po' così. Te l'ho messa in playlist perché so che tu, un profondo conoscitore degli Oasis. Esatto, però questi vorrei ribadire con una croce di sangue che non sono gli Oasis. Siamo critici. No, non sono critico, questa canzone non è neanche male. Tu mad ferrit de ste palle. Io sono mad ferrit, come sapete io ho anche degli svariati tatuaggi, però motivati uno più dell'altro. La mia direzione va verso Noel Gallagher, non Liam Gallagher, che è un buffone. Dove è finito, tra l'altro? Anche non lui è... Noel pare sia da Bay Road a registrare. E uscirà qualcosa sicuramente di migliore. Sì, esce migliore. Però lui e uscirà qualcosa di più creativo di questo. Ha fatto la cosa migliore. Credo che sia tipo prodotto da Chemical Brothers. Dunque farà una cosa... Vi rendete conto che sono 7 minuti e 26 che la gente ci sopporta? Assolutamente, e sì. È ora di mettere un po' di musica. Questa è The Roller di BDI, che apre questa puntata con Simofonico ospite. You didn't know what to say. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone down. Just minding no one. Here I come, here I come, here I come. Just call me the roller. I'll squeeze it and fold you. And we all shine on. È uguale. Dimmi che cosa cambia. A parte la mia tonalità da... Cambia l'autore. Infatti. Siamo ritornati. Music for you. Siete contenti? Immaginiamo di no. E per l'appunto vi maltrattiamo per altri 50 minuti. Che lunga che è. Veramente favotto una cosa. Cioè... Io rimango silenzioso e faccio melina come negli ultimi 10 minuti delle partite noiose di Serie B, ma anche di Serie A. Ora, torniamo al nostro ospite e iniziamo a parlare dei suoi poliedrici progetti. L'ospite ride, tra l'altro. Abbiamo già accantonato la Smainette Rock. No, ancora. Continuiamo a ricordarla. Devo ricordare che comunque costa 10 euro entrare. Sì, è proprio una forfettario. Cioè, esattamente, forfettario, cioè, ragazzi. Drink inclusa anche. Cosa vi dobbiamo dare di più? Un rene? Sì, un qualsiasi soviet russo non potrebbe fare di meglio. Una cosa fondamentale mi sono dimenticato. A chi verrà? Ce lo mangio? No. A chi tessera verrà? Donna? No. Perché sparate queste cagate? Ci vengono naturali. A chi verrà il giorno dopo che ha partecipato all'evento su Facebook, dunque andate e partecipate, verrà recapitato direttamente in posta, impacchettato bene da mia mamma, la prima produzione dei Gain on Rock. I Gain on Rock sono l'alter ego dei Gain on Top. Hanno fatto una produzione rock. Il problema è che sono le stesse persone. Sono le stesse persone, ma che hanno un progetto parallelo. Cioè, è alla base del problema. Gain on Top fanno più un progetto pop electro-oriented. Ma dai, ascolta, dai. Mettiamo via la Spy Night Rock. Dieci minuti. Io stavo dicendo una cosa interessante, invece. Perché placarlo? Volevo sapere come stavano i Gain on Top. Aspetta che ti spiego prima questo. Che stanno benissimo. E i Gain on Rock invece stanno bene anche loro. Ma i Gain on Rock hanno fatto una prima produzione. Allora, visto che facciamo tutto local, al basso c'è Martino Basso dei Porin de Bonopolis. Mi pare giusto. Alla voce c'è Sconce, ma non Sconce voce. Paul dei Porin de Bonopolis. E la base l'abbiamo fatta io e Luca Bogoni, mio socio, e sarà una bella canzone in stile non lo so, in stile Gain on Rock. Ti prego, dimmi il titolo. Si chiama I Listen to Metallica. Beh dai, non pensavo, pensavo BDI, peggio. BDI, hai detto? BDI, okay. Pensavo peggio. E scusate, ma il testo l'ho scritto io. Dunque se troverete degli errori di non so. È in inglese. Sì, è in inglese, ma è molto basilare. È basico, tipo, sì. I'm with you. The pen is on the table, the cat is under the table. Ah, perfetto. Metallica around the table. Esatto. I Listen to Metallica, tutta la canzone. No, è una bella canzone. Se la volete avere in omaggio, venite alla Spy Night. Beh, direi che c'è la fila solo che per quello. Beh, puoi dirlo forte. Tu prendi per il culo, ma credimi che è così. Siamo ai The Subways, la prima canzone che porti. Quelli di Rock and Roll Queen ci sono veramente mancati. Beh, Rock and Roll Queen, io vorrei... L'anthem. Allora, io vorrei parlare, visto che esistono i Subways e esiste Rock and Roll Queen, vorrei parlare della colonna sonora di Rockarolla, che è che contiene un Rockarolla, un film discreto, ma con una colonna sonora fantastica. C'è Rock and Roll Queen dei Subways, ci sono un sacco di Pixies e ci sono i Clash, c'è un po' una storia di un certo tipo di rock e io ve lo consiglio. Perché i Subways? Beh, a me piacciono tantissimissimo. Li ho scoperti come tutti con Rock and Roll Queen, ho preso il primo album, mi è piaciuto proprio tantissimo. Ho preso anche il secondo, mi è piaciuto tanto anche il secondo. Questa canzone in particolare è contenuta nel primo disco. È legata a Simofonic in particolare, sì. Per questioni sentimentali. Infatti io appena ho visto il titolo ho detto aspetta che vado ad ascoltarmi, ho detto no, beh, in realtà non è neanche una canzone così romantica, però è bella pestata, insomma. Però secondo me è la canzone più bella di The Subways, molto più bella di Rock and Roll Queen, che comunque è una canzonetta con tre accordi, insomma. C'è un monito al contrario per noi, l'album si chiama Young for Eternity e ricordiamoci che qua ormai andiamo per la pensione un po' tutti in sto studio, anche se sembra che si faccia il contrario. In realtà sono delle voci registrate come su Bim Bum Bam ai tempi d'oro. E quindi andiamo a sentire With You dei Subways. Mentre noi cerchiamo di recuperare un ospite che forse sta giocando a calcetto a quest'ora, ma non lo sappiamo. Ci si prova. Adesso proviamo. All the time I see your reflection. Siamo rientrati in Music for Youth. Questi erano i The Subways con With You. Grazie Simofonica per avercela portata, perché è lui l'ospite da sta serata in compagnia molto amichevole. Doveva essere questo gran programma sovietico con tante sovrastrutture, e ci siamo ridotti in tre a guardarci negli occhi. Ma è sempre bellissimo in realtà. E a questo punto andiamo a parlare dei progetti del nostro ospite, perché forza, è forza. 14 minuti che cerchiamo di parlare del blog nascente. Stanno per nascere un blog, no? Sta per nascere un blog. Un bel parto, tra l'altro. Sì, un bel parto, perché voglio, sai che sono un precisione, le cose le voglio fatte bene. Svizzero. Ho incaricato un mio amico che saluto, si chiama Pierpaolo Febbo, un bravissimo artista di Portogruaro, fa dei disegni bellissimi, di farmi la grafica di questo blog, che poi Mattia, momentè, me lo impaginerà e io ci metterò soltanto i contenuti, perché non sono un webmaster. La delega come soluzione a qualsiasi, esatto, pandemia. Io pago e loro fanno le cose. Però almeno dopo, paghi. Sì, però dopo gestirò il blog. Sostanzialmente si tratta di un blog, e diciamo tanto il nome, si chiama Sottobosco. Sottobosco non è un nome a caso, perché la musica che proporrò in questo blog è proprio musica del sottobosco. Musica che nessuno si fila. Non perché un po' come noi, no, esatto, non per, un po' come il vostro programma, infatti voi siete uno degli sponsor del programma, vai, grandissimi. Non si fila la gente, non perché questi artisti non siano bravi, anzi sono molto più bravi di certa gente che sta dentro a delle major. Ma salutiamo i Modà, ad esempio. Ma non voglio vomitare, dunque non voglio parlare di queste cose. O anche Negramaro, ciao. E niente, voglio nel mio piccolo dare un po' di spazio a queste realtà, e ce ne sono veramente a bizzeffe. Beh, ma anche, soprattutto nel nord-est. Ma anche Paolo Carta, per dire. Marco Carta. Paolo Carta credo sia il chitarrista di Laura Pausini. Però già il fatto che tu non abbia detto Paolo Carta, cioè dimenticandoti il nome, è bene. Fa capire quanto ne capisco, quanto sei fuori dal circuito e quanto bene si sta a riguardo. Esatto, comunque questo blog è proprio uno scopo semplicissimo. Ci sarà scritto anche proprio nell'about del blog, che è dare visibilità a chi non ce l'ha. E questa è una bella idea, secondo me. Adesso non perché la fai tu e c'è questa riverenza, però è proprio carino, nel senso, io ho presente, ho alle mie spalle un'esperienza di scrittura per un blog musicale che ancora faccio con degli individui non meglio specifica. Posso farmi un minimo di pubblicità? Ah, barata, mi pare che tutta la puntata è così. Ma l'ospite non sono io. Beh, se vi interessa, se per caso vi può interessare qualcosa che questo programma non mette normalmente, che è musica in linea di massima, elettronica, soft, ambient, e c'è anche un po' di musica classica di cui però non mi occupo, andate su www.moteldemoca.com per i non anglofoni, esatto.net, e sbizzarritevi. Tu, Simofonico, vuoi sponsorizzare altro? No, io avevo altre cose da dire nel mio blog, ma il signor Favotto mi ha interrotto. No, ma non vorrei mai. Adesso no, mi volevo dire un attimo come sarà strutturato, proprio sì, velocissimamente. Sì, ma poi guarda che tanto abbiamo tutta la puntata. Benissimo, vabbè, allora se vuoi mandare una canzone, non so, dimmi cosa devo fare. No, dico il cosino, dai. No, non è che voglio... portare l'acqua al tuo mulino. No, esatto. Ma porta. Ma a parte questo, non è che voglio inventare niente, insomma, ce ne sono tanti di blog che fanno più o meno quello che farò io. L'unica differenza che credo che la gente riscontrerà, se poi almeno due persone mi seguiranno, è che nel mio blog si parlerà pochissimo. In senso, ci saranno una foto, una descrizione brevissima della canzone che c'è in download e in streaming, dopo vediamo se mi danno il permesso di metterla, e poi il contatto del gruppo. Insomma, se vieni dentro, ti ascolti la canzone, ti piace, hai il contatto del gruppo, te lo vai a vedere direttamente. Non ti devo dire io che sono bravi o no, io ti posto una cosa, te li faccio scoprire, se dopo ti piacciono trovi il MySpace, trovi il gruppo, trovi il Facebook e ci parli direttamente con loro. Ci sono anche possibilità, tipo c'è un gruppo di cui farò uno dei primi post, si chiama Zekaide di Pordenone. Lui addirittura ha messo tutto il suo disco, sono 13 tracce bellissime, in download gratuito, e lì ci sarà tutto lo zip col download gratuito. Tanta gente a ste robe non si arriva, io spero di far arrivare a più gente possibile, di far conoscere a più gente possibile delle realtà che meritano di essere conosciute. E vedremo di contribuire per quanto sì, sia possibile. Anche perché comunque la rete da questo punto di vista qua offre un grande trampolino per chi non certo, è, per chi deve farsi conoscere al grande pubblico. Ricorda che invece il nostro trampolino è sempre il balcone, caro Favotto. Esatto, come che tanto caro fu a per gente come Pessotto, e questa è una battuta che... E anche a Monica Celli, sembra già fatta. Salutiamo anche il maestro che se n'è andato, mentre l'altro ha salutato il cofano di Bettega. Cioè, sono scelte. Però, però ritenta sarai più fortunato. Esatto. Allegria. E con l'attualità continua. Esatto, le classiche situazioni di lui e di lei. Come di Central. Salutiamo esatto, anche Mike, che non si sa dove sia in questo esatto, momento. Mike. Visto che gli hanno profanato la tomba, povero. Se n'è andato e non ritorna. Ma perché? Allora, vabbè, comunque. Sta diventando questa trasmissione? Gli dedichiamo Dream Food di Travis a Mike. Sì, dopo vorrei parlare anche di Travis. Parliamo di Travis, che a te piacciono e a me piacevano un sacco. Piangevo tanto con Why Does It Always Rain on Me dall'album The Man U del 1990. Mi piaceva veramente un botto. Eh sì, credo che sia la canzone che li ha fatti conoscere tutti. In realtà io l'ho scoperti Ocho, un pelino prima, no, sempre dello stesso album. C'era il primo singolo che era non mi ricordo, però c'era un video dove lui faceva le flessioni sotto l'acqua ed era meraviglioso, che era, mi verrà in mente durante la pubblicità, poi te lo dirò perché mi sta sulle palle non sapere un titolo di una canzone di Travis, che sono, dopo i Beatles e gli Oasis, il mio gruppo preferito. Ah sì? Assolutamente sì. Complimenti. Sì, sì, sì. Salutiamo Fran Ely, intanto ascoltiamoci dei Travis dal loro album, per l'appunto The Man V, un altro singolo, si chiama Driftwood. Everything is open, nothing is set in stone. Rivers turn to ocean, ocean's tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn, your driftwood floating underwater. Breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow end of no use. Waterfall. To go, pillars turn to butter, butter flying low. Low is where your heart is, but your heart has to grow. Drifting under bridges, never with the flow. And you really didn't think it would happen, but it really is the end of the line. Safe to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore till you reach your shore. Your driftwood floating underwater, breaking into pieces, pieces. Happen, but it really is the end. riff dei Travis e scendono le lacrime sul volto di Simofonica, che associa determinate canzoni a determinate stagioni, e qui potrebbe partire un discorsone. No, beh, questa canzone qua, essendo del secondo disco dei Travis, credo che sia del 98, sì. Avevo 17 anni, dunque periodo scolastico, o forse 99, perché credo di aver avuto che avevo già la macchina, o forse la guidavo prima di avere la patente, può essere. Ma che macchina aveva Simofonica? Avevo una Ford Fiesta. Ma buona, che hanno pensato bene di distruggermi dei signori venendo con un camion, era di mia sorella. No, sì, injury. Abbiamo buttata via, purtroppo. Tu ne sei uscito male, a quanto vediamo. Sono uscito con un taglio in testa, niente di che. Però il furgone l'hanno buttato via, la macchina anche. Complimenti. Comunque sono stato anche bravo a non farmi niente. Hanno dovuto pagare anche i danni del parco delle rose, perché sono finito dentro il parco delle rose. Parco delle rose a San Donato, che lì. Esatto. Noi ci dimentichiamo sempre che trasmettiamo oltre che su Radio San Donato, anche su Sherwood. Eh sì, 97.8. Pubblico di Padova, venite a visitare il parco delle rose, è carino. E ci trovate ancora dei reperti archeologici, che sono le cassette dei Travis, dei Verve. I CD, dai, non le cassette. L'unica cassetta che ho comprato è stata a 5 anni, 6 credo, degli Europe, The Final Countdown, scusate. Ustia, che pezzo storico. Poi mi sono un po' messo a posto. Sì, è messo a posto la testa. Io l'ultima cassetta l'ho comprata, che Pasqua ne buttava via una vangata al negozio di CD qua a San Donato. Anche Masara le buttava via, sì, un sì. giorno. Masara proprio te le tirava addosso. Sì. Anche. Sì. Dicendo che se non ascoltavi gli FX 65 eri un fallito. Esatto. Perché lui è molto esperto di dance, però... Sì, no, mi piaceva, perché voglio dire, questo aneddoto, spero che mi stia ascoltando, così mi denuncerà. Ma sicuramente ci ascolta. Che ogni volta che entravi dentro gli domandavi un CD, tipo appena uscito, scusate, l'ultimo degli Oasis. No, guarda, è appena andata via la ragazza, l'ho appena comprato, guarda, se gli corri dietro ancora l'ultimo in mano. Ma guarda, cioè, potevi domandargli da Brando Hardy agli Oasis a chiunque, ai Green Day, e lui, fatalità, l'ultimo era sempre andato via. Vabbè. Torniamo sulle nostre tracce di Music for Youth. Si diceva, come stanno i Gain on Top? E tu mi hai risposto bene, ma non essere... I Gain on Top stanno benissimo, sono reduci da... Adesso me la tiro un attimino, da un sesto posto in classifica su iTunes di vendite. Era là che volevo andare a parare. Abbiamo fatto questa collaborazione con Scarlett Etienne, che è andata benissimo, abbiamo fatto un sacco di download. Ricordo che abbiamo presentato la traccia senza la parte vocale. Senza la parte vocale, poi ci abbiamo aggiunto la parte vocale, che ha dato quel tocco di glam a quella canzone che era inutile. Ci avete cambiato titolo, tra l'altro. Si chiamava Gain on Top are Small Town Rockers. Sì, questione di etichetta, scusate. Un attimo autoreferenziale, l'abbiamo un attimo cambiata. E insomma, siamo andati sesti in classifica. Io ho fatto la foto col mio Mac al fatto che siamo arrivati sesti e abbiamo superato Subsonica. Dopo potevamo andare anche 1800esimi. Sì, fatalità è Subsonica, adesso li stiamo remixando, dunque vedi che è tutta una cosa tirata. Tra l'altro c'è stato questo breve momento in cui ve la giocate con i Chemical Brothers e i Daft Punk. Sì, peccato che le loro canzoni siano là da 10 anni, però insomma sono canzoni che evergreen, insomma, come dire, la Bohemian Rhapsody. Il colpo d'occhio però, sì, era bello, secondo era me bello. È impressionante. Era bello, diciamo, sì. Che ho qualcosa da dire ai miei figli, se li avrò, insomma. Tra l'altro, ma com'è gestita la questione classifiche lì? Cioè, voi avete un counter per verificare, certo, quanti li hanno... l'etichetta, cioè il nostro editore, più che l'etichetta è uscito per la nostra etichetta, l'editore nostro ha tutto sotto controllo, un counter. Se vuoi sapere i numeri te li dico in privato. No, beh, lascia stare i numeri, perché, no, ti racconto, ci sono un po' di porcate, sono... Per voi non è non è dimostrabile, anzi sono certo che questa cosa non si è verificata, perché si vedeva che era un movimento naturale in classifica. Certo. C'è chi da un giorno all'altro produce, butta su iTunes e scala al primo posto. Non è che si riacquista il pezzo da solo e lo fa centinaia di volte. Beh, però no. Ce allora, ne sono. Allora, succede spessissimo che un'etichetta discografica grossa, appena esce, beh, come tu sai, quando tu entri su iTunes o qualsiasi classifica, guardi le prime 10 e le altre non le guardi più. È un modo, è una strategia di marketing. Io e Luca Bogoni ne abbiamo comprati due a testa. Però e dopo. Sì, è già 2 euro. 1,80 euro. Però, già 2 euro per 2 sono 4 euro, insomma, sono già troppi. Però immagini una Sony che può fare un investimento di 20.000 euro e comprare 18.000 download, è ovvio che vai primo in classifica. E dopo tutto viene naturale, il pezzo è primo, un sacco di gente vede, cavolo, è primo, secondo, aspetta che lo ascolto, magari mi piace, lo compro. Se sei 64esimo non lo vede nessuno. Perché molti entrano in classifica sono dei poveri sconosciuti quanto noi. Cioè, succede molto anche nella dance comunque. Potenzialmente possiamo farlo anche io e Al qui, sì, basta sì, avere sì, un potenziale di soldi. Cioè io ogni volta che vado a vedermi iTunes, ma soprattutto questa cosa accade in Italia, sì, non sì, tanto sì, negli iTunes esteri, cioè, c'è sta porcata infame che trovi gente senza capo né coda nelle prime tre posizioni, ti chiedi il perché sì, della perché cosa. Sì, comunque è un investimento che poi ti torna indietro, perché se l'etichetta finanza i soldi comunque torna indietro, allora è l'artista. Dunque c'è un minimo che va tassato, dunque per... Sì, insomma, è un investimento che rende. Comunque bene, Casa Sonica vi vedrà ospiti con il remix di Eden. Sì, che... di Eden, spero che gli piaccia, se hanno mandato le tracce e lo stiamo facendo una versione, una dub version, non è il solito sound gain on top, però volevamo fare una cosa che possono suonare veramente tutti, da Albertino a qualsiasi... Una versione da club, visto che la canzone è abbastanza tranquilla, però è tranquilla e ha però 125-126 battute, dunque ci permette di fare... un bel lavoro denso. Io ho visto pezzo, che è uscito anche Istrice, che è il primo non single. Non l'ho sentita, non l'ho sentito. È sempre lì sulla falsa riga, anzi un po' più lenta. Ma tu, ma è il primo singolo, dunque Eden non è un singolo. Eden era rilasciato in download, ah, okay, per anticipare l'album, okay, so a quanto pare questo è l'ufficiale fisico, però ormai funziona molto questa cosa, per esempio, sì, che i BDI che abbiamo citato prima, infatti hanno fatto... Invece, visto che siamo in questo clima da salotto, come avviene un remix in casa Gain on Top? Beh, funziona così, solitamente, ma tu intendi quando domandiamo a qualcuno, se qualcuno ci domanda, o proprio la parte fisica che facciamo? La parte di creazione. La parte di creazione, noi riceviamo le tracce da chi dobbiamo remixare, le ascoltiamo, ascoltiamo il pezzo originale, vediamo l'idea che ci viene giù, la mettiamo giù io e Luca a casa, e dopo, quando abbiamo un'idea di base, la portiamo in studio, la lavoriamo con Gianluca Marcatti, che è il ragazzo che lavora con noi. E dopo, insomma, da tre cervelli qualcosa viene fuori, insomma. Esatto. No, è bello perché c'è una fusione di tre comunque scuole di pensiero diverso. Anche se io e Luca veniamo comunque dal rock, Marca viene dalla techno, dunque è completamente un altro mondo, e dunque ci uniamo e vengono fuori cose decenti, insomma. I Supergrass non sarebbero mai remixabili, specie questo pezzo. Ma che... non remixerei mai dei gruppi così incredibili. Caught by the Foots, il primo. Anzi, Caught by the Foots. Io faccio pure ripetizioni in inglese. Cioè... Fuzz. Ecco, ne sbagliate 3, 2 su 4 ne sbagliate. Che depressione. Che anche loro sono passati al New Age e io c'ero, devo dire. Io no, invece. Sì. Beh, tu gran avevi peccato. 4 anni, credo. E anche, non so, altri interessi, presumo. Sì, quando credo. Sono venuti a suonare? Io. Boh, penso fine anni 90. Beh, no, non c'ero assolutamente. Stavo a prendere il latte. Secondo me eri con Federica. Ti mandava alla mamma. Secondo me ti stavi divertendo con Federica. I Supergrass, ottimi. Io mi ricordo un album che invece è Should Cuckoo. Hanno estratto Alright, che a me è piaciuto un sacco. Ha fatto un sacco di classifica. Tu, oltre a vedere gli New Age, te li sei beccati da altre parti? No, li ho visti solo lì. E... però ho tutta la loro discografia perché mi piacciono veramente tanto. Di faccia sono veramente brutti. Io vorrei dire questa cosa. Veramente brutti. Tra l'altro non mi ricordo come si chiama il cantante, ma è, come si dice, protagonista di uno spot che è molto famoso in Inghilterra in questo momento, di una macchina, ma non mi ricordo che macchina. Loro si chiamano The Jennifers una volta, e questo, pronunciamolo giusto, è il primo singolo del loro primo lavoro, Caught by the Fuzz. Dream. I was unthinking. If only my Questi erano i Supergrass e questa è Caught by the Fuzz. Siamo rientrati in Music for Youth, Radio Sherwood 97.8 RSD 102.2. In sottofondo Spy Break dei Propeller Heads, che a me piace una barcata, sì. Che non mettiamo mai tracce strumentali, Favotto. Eh no. Dici che va bene o va male sta cosa? No, io qualche volta le metterei. In realtà in altri programmi che facciamo per questi, affari nostri, per questa radiofonia, ci capita di mettere pezzi strumentali, sì, che hanno senso. In questo programma non lo facciamo mai, ma credo sia una nostra lacuna in realtà. Hai pezzi strumentali che secondo te spaccano un sacco? Tipo a me piacciono i Battles, quelli di Atlas. Sì, ho presente. Ma io non sono molto fan dei pezzi strumentali, a meno che non siano fatti da band rock tipo i Pink Floyd, che mi fanno una traccia strumentale di 13 minuti, e allora mi piace. Un CD tutto di tracce strumentali farei fatica a supportarlo. Gli Oasis, per esempio, sì, scusate se torno in cosa, hanno una bellissima traccia strumentale che è Fucking the Bushes. Apre anche un CD. Apre Standing on the Shoulder of Giants, sì, ed è contenuta soprattutto nella scena più bella di, credo, Fight Club. Eh sì. Snatch, scusate, questo lapsus freudiano. Sì, comunque era Snatch. Ottimi gli Oasis, tra l'altro. Sì, tra i gruppi mi mancano un po'. Non so a te, tu non grande estimatore. Gli Oasis? Sì. No, a me piacciono, però non... io ho una preferenza per i Verve, adesso so anche che... io in realtà la butto a Verve. Perché adesso so che qui mi odierete, però purtroppo sì, a me sono sempre... io ho sempre avuto una grande passione per i Verve. Un po' più psichedelici anche nel primo CD, c'era questa grossa sfida, che loro, Verve e Oasis, si volevano anche tutto sommato bene. No, credo che se ne vogliano ancora. Il casino era con i Blur, vero? Sì, che in realtà, gli Oasis aprivano i concerti di Verve una volta, poi le cose sono andate un po'... Sì, ma... sono un po' invertite. È un gran peccato. Secondo me c'è stato un po', in quello che è stata la stampa inglese del tempo, un voler ricreare quella specie di diciamo diatriba, esatto. Beatles e Rolling Stones. Bravissimo, esatto, penso la stessa cosa, quindi si trovava un qualche avversario per gli Oasis. No, però questo aneddoto, credo che la cosa sia nata nel momento in cui Damon Albarn è andato a ritirare un premio con Graham Coxon per non so se Country House, no, per Park Life. Per Park Life sono entrati sul palco e hanno detto questo, ma sinceramente anche perché si vedeva che sono bravi ragazzi, insomma. Damon Albarn io lo stimo tantissimo, secondo me è un genio. Ha detto questo premio andrebbe condiviso con gli Oasis. Il giorno dopo Noel l'ha replicato con un secco: l'unica cosa che condividerei con Damon Albarn è sua madre. A lei. Da lì sono sfozzate le liti. Poi Liam ha detto più volte che vorrebbe che Damon e Blair prendessero l'AIDS. Quello è un classico augurio anche che sta bene a Natale. Secondo me quell'altro ha replicato da tua madre, sì. Però non l'ha detto a nessuno. No, gli altri probabilmente non parlavano neanche perché avevano paura di farsi recapitare a casa una testa di un coniglio. Cioè sì, perché io gli Oasis li vedo comunque molto più combattivi e rissosi. Sì, ma infatti, ma a volte anche per niente. Comunque hanno quell'arroganza che comunque a noi fan degli Oasis ci è sempre piaciuta. Allora, perché abbiamo tirato su tutto questo discorso? Niente, perché adesso mettiamo Kate Bush. Infatti, cioè, io sto preparando il terreno per un, secondo me, un momento radiofonico ostico. Ma invece non capisci niente. Anche se in realtà mi viene in mente, potevamo fare una connessione bellissima e mettere i Bush prima con Glycerin. Sì, è vero, i Bush. E abbiamo anche già citato il Bush con gli Oasis. Esatto. Bush, The Chemical Between Us, gran singolo. Era già verso comunque adesso la fine. Vado a casa prendendo il Bush. Era l'ultimo, tra l'altro, sì. L'ultimo Bush perché stiamo a registrare ore infami, anche se a voi non sembra. Esatto, sì. Questa Kate Bush, perché la mettiamo su? La portata Simofonic, ed è una scelta che io, ripeto, non capisco. Perché non capisci? Perché come la maggior parte della gente tu hai il paraocchi. Certo. Tu guardi davanti al tuo naso e basta, io ce l'ho anche bello grande, dunque vedo anche abbastanza più in là. Kate Bush è una signora della musica mondiale. Io l'ho scoperta, come la maggior parte degli italiani l'ha scoperta, con la pubblicità della Coppa del Nonno negli anni 80 in Italia. Kate Bush fa Moonlight Shadow. Esatto. Hai capito? E dobbiamo metterla? No. Tu devi mettere Wuthering Heights, che è una canzone meravigliosa, una delle più belle canzoni pop siano mai state scritte. Sì, poi se la taglio un po', ecco, scendiamo a parti, io la metto. Adesso tirerò, voi non la vedete, ma tirerò questa cuffia da un euro in faccia a Terzariol, perché tanto non perdiamo niente in tutti e due i casi, né per la cuffia né per Terzariol. Tra l'altro, se potessi fare un inciso, Moonlight Shadow ha un testo che secondo me è struggente e io vi consiglio di scaricarvelo e leggervelo. Prima di presentarla... Ma siamo sicuri che era, di, era lei la cosa di Moonlight Shadow? Vabbè. Io non sono così sicuro. Ci siamo persi quest'anno anche un'altra cosa. L'ho già detto che il leader dei Travis è in concerto al New Age. Che ho detto, lo dico, mi pare di no. No, non l'hai detto perché eri confuso, non sapevi se confuso e felice. Per la felicità di Carmen Consoli. Esatto. Signori, Franilli dei... Sai, benissimo! Franilli dei Travis, ospite per l'appunto al New Age. Abbiamo ascoltato tre in Driftwood per dire questa cosa. Vabbè, c'è sfuggita, d'altronde siamo 400 anni. Comunque, guarda come mi svia il discorso da Kate Bush. E questa canzone incredibile. Che non vuole metterla. Non vuole metterla, ma adesso la metterà. E anche tutta, 7 minuti extended version. 4 minuti e 25. Perfetto, dai, ti concedo un 4 minuti. Prendiamocelo in pieno, questa è Kate Bush. Yeah! è il momento delle responsabilità. E sì, qui c'è una cazzuola che arriva sulla schiena in Simofonic, anzi, ancora più di Favotto. Hai compartecipato a questo misunderstanding generale. E io mi dissocio sia dalla canzone che dal vostro misunderstanding. Errata corrige, Moonlight Shadow, come ho detto, non la fa ovviamente Kate Bush, ma la fa Mike Oldfield. Scusate, in realtà quello che cercavo di dire è che Kate Bush è famosa, almeno nel mio lettore MP3, per Running Up That Hill. E è quello il famoso testo che vi invito a scaricare. Grazie. Comunque io vorrei fare una precisazione. Allora, Teresa Leone non è degno di condurre questo programma. Un ignavo. Non si può non apprezzare questa canzone. Può non piacere, ma non si può non apprezzare questa canzone. E per tutta la durata della canzone, appunto, mi ha cazziato dicendo: Madonna, che sogno messa. Anche in un dialetto così. Soprattutto se si tiene conto della qualità globale del programma. Esatto, questa scaletta che avete fatto stasera penso che sia la più bella mai fatta nella vostra vita. Vabbè, dunque non rompete le palle, se non stiamo a tirarcela così. Allora continuiamo con la scaletta più bella della nostra vita e andiamo a presentare, e andiamo a non dire nulla sugli Enemy UK. No, beh, ma qualcosa perché Enemy UK? Non lo so. Era stato detto The Enemy. Si chiamano The Enemy. The Enemy. Perché poi c'era stato anche lì un casino. Anche i Charlatans, c'era un gruppo in America, anche a loro volta chiamati Charlatans. I Charlatans si vanno a chiamarsi Charlatans UK. Non so se è lo stesso casino con The Enemy anche in sto caso. Ma io ho il CD, c'è scritto solo The Enemy. The Enemy sono The Enemy. Sì. Bene, perfetto. Adesso so di non avere grossa credibilità dopo Kate Bush, però sono abbastanza sicuro che gli Enemy si chiamano Enemy e che questo è il primo singolo che hanno fatto dall'album We Live and Die in These Towns. Loro si ispirano un po' ai Gem, agli Oasis, a tutta la gente che piace al Simofonic qui presente. Tra l'altro il video, se posso consigliarvelo, è un qualcosa di bello, fa molto working class inglese. È vero. E storie di adolescenti. Credo che siano anche loro da Manchester. Ah sì? Non vorrei dire una cazzata, ma ovviamente l'ho detta. Ma non se importa. Vuoi la dico io, che così tanto già per stasera. Allora puoi dire che sono di Manchester. Secondo me gli Enemy sono di Manchester. Esatto. From Manchester we love The Enemy and non UK. Had Enough, dall'album We Live and Die in These Towns. We'll be right back. The Enemy e non UK, come mi hanno sottolineato prima i ragazzi qui presenti, e per i ragazzi dico Favotto e Simofonica, questa era Ad Enough, Ad Enough. Se vogliamo pronunciarla un po' storta, in qualche modo anche noi ne abbiamo enough di questo programma. Sì, immagino. Ma non prima di aver ricordato il motivo che ci riunisce. E ce ne siamo ricordati solo adesso il motivo, eh? Parliamone del mio blog allora. Non avevo, non avevo neanche chiamato più l'altro al telefono. No, ma infatti intanto non mi risponde. Roba da matti, va bene, alla fine vuol dire allora, che è andata bene. Noi eravamo qui a inizio puntata e lo siamo ancora per parlare di Spy Night Rock. Questo sabato 12 febbraio in quel del New Age. Arrivate Club. Presto ragazzi, arrivate presto, non fate come i soliti cazzoni che state a bere spritz e roba in giro. Venite presto, bevete lì, avete una drink inclusa, altre 200 ve le do io, non rompete. L'ultima volta pioveva, non sì. Alla versione rock, ho fatto un'ora fuori, sì. Un'ora pioveva. Un'ora, male. Un'ora essendo in accredito, fra l'altro. Ragazzi, perché voi siete fighi quando la gente vi dice arrivate presto, arrivate a mezzanotte. La gente quando va alle feste a mezzanotte. Se arrivavate alle 11 e trovate senza problemi. Infatti, quello che è sconcertante nel mentre in cui tu aspetti fuori è sconcertante. Perché sconce è sconcertante, sì. Certo. Però è una serie di filmini che ti fai su quanto bella è la festa dentro e quanto calda soprattutto è. Sì. Perché questa cosa accade in dicembre, ricordiamo. Sì, io sono stato malissimo e non era il momento in cui sono andato a approfondire il mio rapporto con i campi, a quanto ha detto Simone Foglio. Ma voi state prima. Parlando della mucchiata natalizia. Bravissimo, noi sì. Esatto. Un'altra festa made in New Age, sempre da queste menti poco avide, al contrario delle nostre, di Simofonic, il tuo socio divanato con Call of Duty e Cassiano, che salutiamo tutti e due. Sì, infatti, grazie per avermi lasciato solo in questo covo di serbi. Almeno ascolti di serbi. Almeno di serbi, tra l'altro. Di serbi della gleba. Terribile. Almeno ascoltateci, la Tigre Arcan qui presente è speaker, e tu chi sei? Milosevic? No, io vorrei fare Mladic, se posso. Perché un altro bel personaggino. Sì, di sì, cui... sì, uno di cui andarne fieri, insomma. Quelli che ti trovi sotto l'albero di Natale non puoi che essere felice. Beh, comunque vi aspettiamo la Spy Night Rock. Venite, perché la prima è stata un successo, è stato fighissimo di venerdì. Questa è di sabato per accontentare tutti. È di sabato, è vero. Sì, perché sarà il degheio. Perché la prima volta abbiamo fatto tanta gente, però tanta gente ci ha detto: ma perché non la fate di sabato? Io il venerdì sera non posso uscire, lavoro, vado a scuola, il sabato. Non è che allora si fa di sabato, così l'unica scusa che avete è la messa della domenica mattina alle 10. Vabbè, e quindi queste potete cose saltarle, cioè potete gestire in qualche modo. Andiamo con la traccia di chiusura, la portata Simofonic. Strano, perché l'ho fatta io sta puntata, perché infatti è la miglior scaletta della nostra. E beh, sono ovviamente i Semifonic con Secret Smile. Sì, allora i Semifonic con Secret Smile. Un attimo, adesso così. Niente, è un pezzo. Beh, ovviamente è bello, se l'ho portato, dai, mi fa schifo. Ovviamente dall'album Feel Strangely Fine. Sì, è romantico. Ecco, era più facile portare Closing Time, che la conoscono tutti. Però questa credo che comunque la gente l'apprezzerà. È un bel lentone. Anche Chemistry non era male. Non è male neanche quella, non è male neanche Singing in My Sleep, che era il secondo pezzo. Ma è il classico suono che qua proprio non prende. Fa fatica a entrare in classifica. No, prende ovviamente solo a me. Infatti io ho il CD originale, perché l'avevo comprato immediatamente. Loro sono americani. Tipo un altro che non entra qua in classifica ed è bravissimo, anche se noi non lo passeremo, è Dave Matthews. Sì, sono strabravo, cioè, una roba incredibile. Una cosa veramente favolosa è qua. Cioè. Ma lo stesso John Mayer. John Mayer qui non ha lo stesso riscontro. È considerato comunque un genio ovunque, tranne che qua. Un po' unto in questo periodo. Sì, ma ovviamente in un scusami, ma cosa ci lamentiamo? In un paese dove primo c'è Paolo Claudio Marco Carta, mi dicono. Gustavo Carta è primo. Seconda c'è Alessandra Amoroso. Terzo c'è chi? Emma Marrone. Amoruso, quello che gioca la regina. Esatto, adesso fa il cantante. E si è tinto e ha cambiato sesso. Sì, e ha due tettone così. Cioè, i primi sette in classifica sono questi. Adesso fortunatamente c'è Adele. Come si chiama Adele? Adele, quella inglese. È cantante in My Hometown era? Beh, mi ha fatto un bel CD. Comunque non lamentiamoci da disco, cioè altrimenti stiamo qua a parlare per altri 4 ore. Fa botto, fa gesti su, su Adele adesso, vabbè. Beh, è di sostanza lattosa. Sì, beh, sicuramente sì, peserà tipo 120 kg. Sì, esatto, cioè per carità. Un box doccia che canta. Un bel terzino. Cioè, secondo me anche un camion della Scania è di sostanza, però non un bel per cassonetto con una bella voce, insomma. Finisce sempre bene questa puntata. Già adesso metti in sedacca. Vi ricordiamo la Sby Night Rock questo sabato al New Age. Ringraziamo Simofonic, tanti auguri per il remix Casa Sonica. Grazie, per Eden. Se non ci vedete mai più è perché ci hanno bannato a qualsiasi festa, perché abbiamo cannato remix. Ricordatevi Sottobosco Music Blog. Il blog lo trovate www.sottoboscomusicblog.it o com. Vedremo di darti una mano per quanto possibile, certo. Per quanto noi avremo ancora delle mani. Secret Smile, Semifonic Secret Smile. Ci sentiamo, ciao Al. Ciao. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this world and sadness. I'm losing and bluesing, but you can save me from madness. Sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows. Secret smile.